Passano i giorni, ma non so perché. Da chi volete, volete con me. C'è qua fra mille, ma una sei tu, quella che voglio sei tu. E mi nasce qui in un attimo, subito da solo, aspettare quanto. Chissà se poi sarà con voi, e vedo un'ombra e tuo corpo vicino. Tu lo sai, quello che ogni amante spera. Voglio sei tu, come fai a montare il battito, e mi lasci qui un attimo, uno stupido da solo, aspettare quanto. Subito da solo ad aspettare quanto. Per liberarmi canto mi funk e vado avanti, sono lontano da te, mi abbraccio la seconda e ti penso forte.